Cari amiche e cari amici, benvenuti, bentrovati, Maridia ai microfoni, brussellando, martedì sera, è ormai già da qualche tempo che apro la trasmissione, il nostro malgrado, con un freddo veramente, insomma, direi epocale. A quanto pare abbiamo anche toccato temperature che soprattutto qui nel mitico regno del Belgio era da un bel po' di tempo che non si sentivano, effettivamente le sentiamo, e quindi vabbè, ci riscaldiamo questa sera con i numerosi ospiti che sono qui con noi. Saluto Dani M. Buonasera a tutti. I nostri Giorgio e Fiordaliso stanno arrivando, effettivamente, tra un po' di ghiaccio, un po' di neve e il fuso orario dal Giappone, evidentemente, insomma, il coordinamento prima o poi sarà compiuto. Saluto anche Claudio. Grazie, ciao a tutti. Probabilmente già ne avrete sentito parlare, lui è stato regista per tanto tempo con Valentina Di Mari di Noi Volevons Savoir, non saprò mai dirlo correttamente. Neanch'io, dopo 2 anni di regia. Quindi Claudio è qui stasera con noi, soprattutto per quello che riguarda la seconda parte della trasmissione, perché come vi annunciavo ci sono tanti ospiti. Abbiamo una prima parte in francese e una seconda parte poi invece riprenderà normalmente in italiano. Sono particolarmente contenta perché ripresentiamo uno dei libri della casa editrice Meo, Gérard Adam, che effettivamente è veramente il nostro talent scout, che ci permette di conoscere tanti autori belgi, di questo ne siamo contenti, e non solo, perché come saprete sono tanti anche gli autori croati di cui abbiamo parlato negli anni. Quindi ricominciamo il 2012 con Gérard, che è anche qui con noi questa sera, e intervistiamo Michel Jouaret, che ha scritto un libro bellissimo che veramente vi consiglio di leggere, Madame Cléo. Michel, bonsoir. Bonsoir. Welcome, very welcome, bienvenue chez nous. Comme je te disais auparavant, mon français à la radio n'est pas terrible. Je ne sais pas pourquoi, je me sens toujours mal à l'aise, mais on va essayer de superer aussi ça. Alors, je sais, et j'ai vu un peu ta biographie sur Internet, sur ton livre, donc j'aimerais bien si tu puisses nous raconter un peu de ton parcours artistique avant de toucher donc les thèmes principaux de ton roman. Mais c'est un parcours qui commence à être une longue avenue maintenant, parce que, bien sûr, j'ai commencé comme... je dis j'ai commencé, mais je suis toujours poète. J'ai écrit des poèmes depuis que je suis né, en fait. J'ai toujours rêvé en poésie. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans. Jusqu'au moment où mes professeurs à l'époque m'ont dit « Mais il serait peut-être temps de raconter des histoires. Est-ce que tu es capable de raconter une histoire ?» Alors j'ai essayé de raconter des histoires. Mais ce n'est pas facile de passer de manière simple de la poésie à la prose. Je ne suis pas devenu romancier tout de suite. Il a fallu le temps que j'accepte d'ailleurs d'abord l'idée d'écrire un roman. Il a fallu que j'accepte l'idée d'écrire aussi des nouvelles, ce qui m'est arrivé, et qu'il y ait en tout cas en moi une autre écriture que la poésie. Ah, voilà. Ça c'est fort intéressant. Donc on passe maintenant à Madame Cléo. Comme je disais en italien auparavant, en ouvrant l'émission, j'ai bien apprécié ton livre, aussi ton écriture. Tu sais, aussi pour un étranger, apprendre une langue étrangère, ça passe aussi à travers l'écriture des autres. Oui, c'est vrai. Donc j'écris pas mal de phrases aussi à retenir et j'espère aussi à utiliser dans les futurs. Alors, j'ai une première question, parce que m'a fort frappé aussi ton introduction au roman. Tu dis qu'il t'a fallu du temps pour écrire de Madame Cléo, qui a 40, quand tu avais 40 ans, elle était déjà dans ta plume. Et il t'a fallu longtemps avant de finaliser le roman. Quelle était donc l'émotion qui t'a fait sortir finalement les mots que tu n'avais pas auparavant? Mais c'est justement une très très grande émotion qui m'a fait franchir le pas, qui m'a fait passer de la poésie au roman, parce que j'avais vraiment envie de raconter non pas une histoire mais plusieurs histoires. Et en fait, je me suis très vite aperçu que, en racontant des histoires, eh bien, on arrive à donner un sens non seulement à tout ce qui nous arrive, mais à tout ce qui peut arriver. Voilà, c'est comme ça. Et en effet, on voit qu'il s'agit d'un roman, on peut dire, choral, où il y a plusieurs histoires, en fait, oui, qui se rencontrent, oui, ça, oui, au carrefour du protagoniste. Il y a plusieurs thèmes. Vous touchez le thème de l'enfance, le thème sur la connaissance de l'autre, une autre section qui est un peu plus menaçante, soit disons, moi je voudrais l'appeler sur la jalousie, oui, la troisième partie, oui. Et enfin il y a l'épilogue. Donc on commence avec la première partie. Et que j'ai fort apprécié aussi, que ça concerne l'enfance. Donc, qu'est-ce que c'est l'enfance pour Michel Jouaret? Mais l'enfance, c'est, pour moi, c'est, j'ai envie de dire, c'est à la fois la fin de la guerre, et c'est la guerre tout de même, puisque mes parents, étant séparés et puis divorcés, n'ont pas cessé de se faire la guerre. Autrement dit, je suis né dans une époque incertaine. J'ai vécu chez un couple incertain et je n'ai jamais connu d'autre mot que le mot rupture dans tout ce qui se passait au cœur même de ma vie. Et c'est ça aussi que je voudrais, dont je voudrais parler pour proposer ce qui a été mon histoire par après. Voilà. En effet, en lisant donc le roman, on peut voir en fait qu'il s'agit d'un parcours d'un homme qui décrit sa vie. Et il me semble plutôt comme un souvenir, comme s'il écrit aussi. C'est un souvenir. Son Madame journal intime, oui, non c'est ça. C'est peut-être pas un journal intime, mais en tout cas, c'est un environnement quotidien. Moi, je décris l'enfance d'un enfant qui était beaucoup trop sensible à son âge et même après, mais sa sensibilité lui a joué de sale tour. En fait, c'est vrai que la sensibilité et la solitude allaient de pair. Donc, j'étais un enfant souvent très seul. Je me réfugiais dans la solitude. Et puis, les mots ont eu immédiatement beaucoup d'importance pour moi. Je me suis mis à parler et surtout à écrire, bien sûr. Mais surtout dans la solitude. Alors voilà, et c'est de cette solitude-là dont je voulais parler parce que je crois qu'elle est à la base de tout ce qui suit. Oui. Donc il y a soit la quotidiennité, vous parlez de Bruxelles, vous parlez d'autres endroits aussi dans la ville, mais vous parlez aussi, par exemple, de l'Algérie. Où il commence la fiction c'est et la où Tunisie. Termine la réalité. C'est la Tunisie. La Tunisie, oui. La Tunisie pardon. Oui. Oui, parce que, évidemment... Là, ce qui me plaisait beaucoup, c'était évidemment de quitter ce milieu qui m'avait marqué à vie, ce milieu tout de même très très difficile pour un enfant. Et alors, je suis parti comme jeune professeur en Tunisie. Voilà, c'était une opportunité qui s'offrait à moi, mais évidemment, je n'étais pas prêt du tout. Ni mentalement, ni physiquement, à passer d'un monde à l'autre. Parce que la Tunisie, évidemment, c'était la Tunisie des années 60. C'est pas du tout la Tunisie d'aujourd'hui, hein. C'est pas, il n'y a pas question d'avoir des grands hôtels à côté de grands hôtels. C'était un pays relativement sauvage, surtout que... C'était en 68, n'est-ce pas? C'était en 60, même avant, c'était en 64. 64. Et donc, je me suis trouvé là aux portes du désert. Et je venais de Bruxelles, et le gamin que j'étais, parce que j'étais un gamin de 20 ans à l'époque, tout de même était singulièrement perturbé par cette différence de non seulement de climat, mais de mentalité aussi. Et puis je me retrouvais avec des classes de 40 à 50 élèves, ce qui était même énorme par rapport à ce que nous avions connu ici à Bruxelles. Bon, mais surtout, il y a eu cette différence que j'ai appréciée par la suite, mais pas immédiatement, c'est la notion du temps. Mmh. La notion du temps qui est vraiment très différente. Ici, nous avons toujours, ici en Belgique et en Europe, on a toujours besoin d'avoir un agenda plein de quelque chose qui nous attend. Comme si nous étions éternels et comme si nous avions toujours des escaliers à monter et à descendre. Toujours. Là-bas, pas du tout. Question d'heure, question de jour, la question d'espace, la question de distance, tout cela me semblait tellement différent et m'impressionnait beaucoup à l'époque. On prend un taxi, on s'enfonce dans un demi-désert, et puis on voit sortir du taxi une ou l'autre personne, et on ne sait pas où elles vont. Elles sont entre les dunes de sable, et on ne sait pas très bien quelle est leur destination. Voilà, c'est tout ça qui m'impressionnait beaucoup quand je suis arrivé en Tunisie. On reviendra aussi sur l'Afrique, parce que j'ai encore une autre question. Mais avant ça, il me semble en tout cas qu'il y a un fil rouge dans tous les romans. Que moi, je préfère appeler jalousie, mais on peut dire la relation entre l'amour et la jalousie. Je vous cite, hein, je lis une phrase de votre roman. « Odile et Odile Selle montaient le cours de ma vie, ménageant ses effets, multipliant des coursions dans ma recherche d'autre chose et d'impossible ailleurs. L'amour comme ouverture aux autres ?» Oui, quand on peut parler de jalousie, parce que incontestablement, oui, le personnage se montre jaloux, bien sûr, mais c'est plus plus grave que ça. La jalousie n'est qu'un épiphénomène. Le premier phénomène, c'est tout de même la trahison. Oui. Madame Cléo, c'est le roman d'une trahison, c'est le roman d'une rupture. Ce qui n'est pas peu de choses, puisqu'on parle d'un enfant qui a vécu justement sa première vie dans la rupture. Donc, lorsqu'il s'est trouvé là devant une autre rupture qui est celle de la femme qu'il avait choisie, là, évidemment, c'est tout autre chose que la jalousie. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave. Oui, parce qu'à un moment donné, vous dites, mon existence était devenue un champ de ruines et ma fille de vengeance allait grandissant. Oui, c'est exact. En fait, disons le désastre conjugal que j'ai connu comme tant d'autres, hein, ce n'est pas du tout un désastre exceptionnel. Mais ce qui est exceptionnel, c'est bien de se trouver là. Finalement, pour un Bruxellois, c'était déjà le bout du monde. Hein. Se trouver là sans assistance, sans personne, et se trouver là, en tout cas, devant une trahison. Que jamais il n'avait imaginé. Donc, il a fallu trouver des ressources importantes pour résister, justement, contre ces démons-là. Et quand je dis que je quittais la guerre en étant enfant, mais que je rentrais dans une autre guerre, ce n'est même pas une image, c'était une réalité. Mmh. En fait, mes parents se sont fait la guerre, et moi-même, je reprenais la guerre là où il l'avait laissée, ce qui est évidemment une infamie pour moi. Et c'est cette infamie-là que je voudrais décrire. Il y a aussi en tout cas le rôle de la femme. En décrivant Odile, vous dites « Dans ce rôle de veuve noire, de mère inconsolable, d'épouse humiliée, elle occupait l'espace avec talent. » Oui. Évidemment, quand j'ai écrit le roman, il a fallu que je fasse de la femme que vous décrivez un personnage de roman, et il a fallu aussi que je reste fidèle à une certaine réalité. Donc, parce que en fait, la question vous l'avez pas encore posée, mais c'est peut-être la première fois dans un roman que les faits sont avérés. Tout ce qui se passe est exact, je veux dire, je n'ai pas inventé ce roman. Ah, d'accord. Et parce que je crois que la destinée d'un romancier est aussi d'être fidèle à lui-même à un certain moment de sa vie et de ne pas se contenter d'imaginer. Mm-hmm. Il y a toujours un roman où on se livre beaucoup plus que dans d'autres romans. Hein. Et moi, le roman où je me livre entièrement, c'est Madame Cléo. Il faut pouvoir assumer ça. On n'assume pas immédiatement. Je crois qu'il faut beaucoup d'années, beaucoup de temps pour que l'écrivain arrive à assumer ce qu'il a vécu. Et moi, j'ai mis de nombreuses années pour le faire. Oui. Il y a aussi un épisode dans le roman où je pense que personne pour l'instant a pu donner une réponse concernant un meurtre dans le roman. Oui. Est-ce oui, que oui. il se passe vraiment ou pas du tout? Mais ça, c'est la question qu'on me pose chaque fois qu'on me parle de Madame Cléo, bien entendu. Et c'est une question, je ne vais pas y répondre de manière claire, parce que la réponse n'est pas claire elle-même. En fait, il n'y a pas il n'y a pas que le meurtre tel qu'il est décrit oui, là. Oui, bien sûr, bien j'imagine. Sûr. Oui, il y a oui. d'autres manières de tuer quelqu'un. Quelqu'un, oui. Et bon, je peux dire que s'il n'y a pas un meurtre qui a été commis, il y a en tout cas une intention meurtrière qui se manifestait de longues années, ça c'est sûr. Oui, oui, ça on peut le sentir aussi mais oui. dans les romans. Mais oui, évidemment. Alors, j'ai encore des questions parce que malheureusement le temps à la radio, ça se passe très vite. En tout cas, dans chaque chapitre, j'ai remarqué que l'Afrique semble jouer quand même un rôle de plaque tournante, comme une page vers laquelle regarder pour retrouver soi-même. Oui, c'est un rôle déterminant et moi je suis heureux que vous ayez dit que l'Afrique est un personnage en soi parce que c'est mon personnage principal. En fait, l'Afrique a joué un rôle de tout à la fois de médiateur, de protecteur et aussi elle m'a proposé un choc culturel qui est considérable. Et évidemment, la difficulté dans ce roman, c'est toujours de se remettre dans la tête que le roman se passe dans les années 60. Oui, c'est ça. Et donc, le pays est tout de même un pays désertique à l'époque. La Tunisie est un pays désertique, que les Français venaient de quitter d'ailleurs. Et il faut bien dire qu'il a fallu que cette deuxième partie de ma vie qui commençait dans un autre continent, dans un autre pays, puisse m'amener à autre chose. Et l'autre chose espérée, tant attendue, c'était évidemment la culture. Oui. J'étais fasciné d'abord par mes élèves, puisque j'étais professeur là-bas, et puis ensuite par les parents d'élèves et ensuite par l'environnement tout entier. J'étais vraiment fasciné par les Africains et par l'Afrique, ça c'est sûr. Ma dernière question, donc ça concerne Madame Cléo, oui. Forcément. Est-ce qu'on peut dire alors que Madame Cléo, c'est un voyage qui va vers l'écriture. Donc on peut imaginer Madame Cléo comme une déesse. En italien, on peut dire musa, oui. Una musa ispiratrice. Oui, oui, oui, oui. Désolé, oui. Je ne connais pas le mot. C'est une muse. C'est une muse, mais aussi c'est une référence. C'est-à-dire que si on se souvient du théâtre de Beckett ou d'Ionesco, par exemple, on sait bien qu'il y a eu très souvent un personnage qui se trouvait sur scène et qui représentait la destinée. Et la destinée, ça pouvait être un personnage tout à fait singulier, ça pouvait être un objet. Je me souviens même, je crois que c'est chez Beckett, il y avait sur scène un sac et chaque personnage qui passait devant le sac le poussait, le repoussait, chotait dans le sac pour l'écarter, mais on ne quitte pas sa destinée. Et moi, ce référent-là, je l'ai trouvé dans Madame Cléo. Mmh. En fait, Madame Cléo, évidemment, elle a existé, puisque je vous dis que ce sont des personnages réels, mais elle n'a pas joué dans ma propre vie le rôle qu'elle joue dans le roman. D'accord. Je sais en plus que samedi, vous allez faire aussi une présentation à la place Fernand Coq, à Imaginaire. Oui, je me souviens bien ça. À 15h. À 4h. 4h. À 16h. Oui. Voilà, à 16h. Moi, j'invite tout le monde, ceux qui habitent XL ou alentours ou n'importe à Bruxelles, de participer aussi à cette présentation. Donc, Madame Cléo, roman qui a été publié par Méo. Dernière question. Vous êtes en train d'écrire encore d'autres choses. Est-ce qu'on peut, par exemple, vous attendre prochainement pour une autre interview? J'ai envie de dire que même quand je n'écris pas, j'écris tout de même. C'est-à-dire que tout se passe dans ma tête, tout se passe dans la réflexion, dans le rêve, et cela se concrétise toujours par quelque chose. Maintenant, cette grande chose que je développe un peu à gauche, un peu à droite, ça s'appelle l'écriture. Et on ne sait jamais où cela mène, l'écriture. Ah, d'accord. Moi, je voudrais aussi remercier Gérard, qui est là. Ce soir, il a dit qu'il ne veut pas parler, donc voilà. Moi, j'obéis, voilà, obédisco. Et nous remercions Michel aussi pour cette présentation. Et on l'invitera sûrement, certainement, une prochaine fois encore, pour peut-être nous parler aussi d'autres romans précédents. C'est moi qui vous remercie de votre lecture et de vos bonnes questions. Merci, buona sera. Eccoci nuovamente qui. Buonasera, bentrovati. Radio Alma Brussellando. Passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione. Torniamo all'italiano dopo aver piacevolmente conversato in francese con Michel Jouary. E come vi dicevo, è una puntata particolarmente ricca e questa sera parliamo di un tema. E mi piacerebbe tanto sapere quali sono le statistiche, soprattutto in Italia, di coloro che amano il gioco del calcio. Ebbene, dovete sapere che non solo ci sono persone che amano questo sport, ma ce ne sono altre che invece cercano di capire quali possono essere i segreti, le tattiche, i trucchi per migliorare, diciamo, le performance, chissà, forse le partite. Ebbene, questa sera parliamo con Nicola Ludwig, il quale è ricercatore all'Università di Milano e ha scritto un libro molto molto piacevole, poi si legge rapidamente. Tra l'altro ho saputo che ha avuto tantissimo successo, non ho perso il conto delle edizioni che sono state già pubblicate. E quindi, per chi gioca a calcio come me, per chi ama guardarlo come Dani M, e insomma, secondo me questa sera ci saranno delle cose abbastanza interessanti, anche perché vi ricordo che parliamo di scienza, parliamo di fisica, e quindi non vi stupite se ascolterete magari qualche formula oppure magari qualche trucchetto. Ricordo magari a Claudio che, seppure lui avrà delle domande nel corso dell'intervista, insomma, potrà intervenire. Saluto intanto anche Giorgetto, che finalmente è tornato. Hai, eccoci qua. Non parlare giapponese, però, ti prego. E Fiordaliso. Con Bamba. E lei fa con i sottotitoli. Nicola. Pronto? Buonasera a tutti. Oh, benvenuto. Buonasera. Benvenuto a Radio Alma, benvenuto a Brussellando. Allora, devi sapere che da quando ho parlato di questo tuo libro c'è un'attesa nell'aria che va abbastanza palpabile. Già sono tante le domande che ho sentito in sottofondo, ma ci arriveremo gradualmente. Quindi magari prima di passare al libro in quanto tale, raccontaci un po' di te. Ma io sono un ricercatore in fisica, in realtà mi occupo di beni culturali, cioè della conservazione del patrimonio architettonico e artistico italiano, ma anche mondiale, e però ho avuto occasione di, siccome mi occupo di divulgazione scientifica, faccio spettacoli di teatro, ho partecipato anche a trasmissioni televisive, mi sono incontrato col mondo della divulgazione scientifica e relativa al calcio proprio, perché in Italia c'è stata questa trasmissione su Discovery Channel e niente, ho partecipato da esperto, diciamo, in realtà esperto che ne sapeva ben poco di calcio. Di calcio non ne sapevi, però di altre cose. Però diciamo che il fisico ha un approccio, o diciamo uno scienziato in generale, ha un approccio verso qualsiasi problema molto aperto. Cioè, beh, proviamo a studiarlo, proviamo a vedere quali sono, se ci sono delle leggi, se ci sono delle regole, e non quelle della FIFA ovviamente. Quindi questo ti ha indotto a scrivere il libro? Questi sono gli argomenti, diciamo, che ti hanno spinto a cercare di dare una risposta ai tuoi quesiti? Questo sì, è stato la motivazione, una delle motivazioni che mi ha spinto. Direi che l'altra grande motivazione è stato proprio lavorando in questo campo, cioè occupandomi di, appunto, di scienza dello sport, scoprire che l'Italia, che è un grandissimo paese per quanto riguarda la fisica, e forse questa la cosa la sanno già tutti, è un grandissimo paese per quello che riguarda il calcio, siamo secondi probabilmente solo al Brasile come numero di titoli mondiali, continentali, sì, eccetera, eppure queste due cose non si sono mai incontrate stranamente, mentre invece nel mondo anglosassone, il mondo anglosassone è ricco di studi, di studiosi che si occupano di scienze dello sport, e non solo del golf, del baseball, non si può immaginare, ma addirittura del soccer, del calcio, come lo chiamo in America, che non è seguitissimo, non è amatissimo soprattutto, se non da alcune elite, eppure esistono interi libri scientifici dedicati allo studio dello sport. E quindi quanto ci hai messo a scrivere questo libro? Beh, innanzitutto siamo in due autori, ho chiesto aiuto a questo mio amico che si chiama Bruno Guerrerio, lui è un giornalista scientifico alle scienze, lui è un logico, a dire la verità, però è un grandissimo scopritore di notizie, e quindi siamo andati innanzitutto a ricercare tutta la letteratura scientifica interessante sul calcio, e quindi ci abbiamo messo un bel 6 mesi, diciamo, a tempo perso, perché io faccio il ricercatore e lui fa il giornalista per una testata, quindi chiaramente un po' nei tagli di tempo, ma questo è stato utile perché ci ha permesso di andare a scavare con molta pazienza in questa miniera che sono appunto gli studi sul calcio. Partiamo con le domande, no? Tra l'altro so che vieni da un tour de force in Puglia, quindi alcune forse le troverai monotone e ripetitive. Comunque, perdonami, spero che non sia il caso. Ma è proprio rotonda la palla? E quanto? Dunque, la palla è, sì, è rotonda, ma non è sferica, diciamo, per dirla con una battuta. Nel senso che, in realtà, che cos'è una sfera? La sfera è un'idea, non è un oggetto che incontriamo tutti i giorni. Nemmeno le gocce d'acqua che cadono sono sferiche, perché risentono della forza di gravità. Quindi in realtà è molto interessante notare come l'uomo pensi una cosa, ma in realtà poi la realtà sia altra. Allora, lavorando su quest'idea di sfera, l'uomo attraverso la tecnologia ha sempre cercato di migliorare, pensando che si dovesse giocare a sfera più che a calcio. E la cosa divertente è che nel mondiale del 2010, appunto, penso si possa citare, tanto non ha bisogno di noi, l'Adidas arrivò a costruire questo pallone, lo Jabulani dei mondiali, con una tecnologia che permetteva una sfera perfetta, perché questa sfera non doveva essere solo sferica, ma doveva essere impermeabile e doveva essere leggera, eccetera, doveva rispondere a dei requisiti per poter giocare. Ebbene, scoprirono che quell'oggetto non andava più bene. Cioè, in realtà l'oggetto con cui si doveva giocare a calcio è un oggetto non troppo sferico, cioè deve avere delle imperfezioni, perché queste imperfezioni ne garantiscono l'aerodinamicità, cioè gli permettono di volare secondo certi criteri che rendono il gioco più bello, diciamo. E quindi, sì, già a questo punto devo intervenire e ti devo chiedere per favore di spiegare anche la legge che fa volare il bombo, come talvolta dice Calabrone. Che sembra non volare e invece vola, e pare che il pallone di Bulani. Certo, certo. Ma guarda, parto subito da questa constatazione molto elementare, che nessun oggetto di quelli che volano è sferico. E questo è uno dei motivi per cui secondo me il calcio è divertente, cioè che noi non ci lanciamo dei proiettili, cioè sì, ce li lanciamo in altre occasioni, e non lanciamo sfere, ma lanciamo gli oggetti aerodinamici. Invece la sfera ha una resistenza aerodinamica, cioè resiste all'aria tanto, infatti appunto gli uccelli non sono sferici, i semi non sono sferici, quelli che volano, e gli insetti non sono sferici. Con l'eccezione del bombo, che in realtà non è proprio una sfera, è più che altro è tozzo, e sfrutta in realtà degli altri fenomeni che poi tornano allo studio a palla, ed è il fatto di avere una superficie, scusate il termine poco scientifico, pelosa, e questi peli creano dei vortici locali che consente, molto complesso il volo degli insetti, ma hanno scoperto che in realtà si comportano un po' come se si muovessero in un fluido molto denso, tipo l'acqua, e quindi in realtà spalettano, non so come dire, ci sono delle riprese al microscopio molto belle in cui si vede questo moto delle ali di un calabrone, animaletti molto piccoli, si vede che in realtà fanno una cosa del tutto diversa da quello che uno si aspetterebbe da un oggetto macroscopico, diciamo. E questo in piccolo si trova anche nelle rugosità del pallone, pensate. Ma allora adesso mi sto chiedendo, scusa, ma visto che adesso hanno fatto, parlando di un altro materiale, cioè un altro elemento che è l'acqua, in realtà nell'acqua pare che queste tute di polipropilene, credo che sia, scivola molto di più sull'acqua, però se dovessimo applicare lo stesso effetto, cioè l'effetto Magnus, anche all'acqua, in realtà dovremmo avere anche dei peletti sulla parte anteriore del nuotatore. Mi sbaglio? È una bellissima questione a cui non so rispondere. Gli scienziati, contrariamente a tutto, oggi tendenzialmente non sanno rispondere alla domanda, se le sanno fare, ma. Beh, è importante farsi delle domande giuste, poi. Certo, no, ti posso dire come affrontare la questione. Il problema è che l'acqua è un fluido molto più pesante dell'aria e quindi le forze in gioco sono diverse. Il pallone perché è interessante, entriamo nella carne del libro. Il pallone è interessante perché è un oggetto che risente tanto della forza di gravità che lo attira verso terra, quanto delle forze laterali, per esempio l'effetto Magnus, che magari poi vedremo, o della resistenza aerodinamica, cioè è un oggetto sufficientemente leggero da risentire in egual modo di forze diverse, e questo fa sì che abbia delle traiettorie divertenti, cioè adatte a un gioco. Nell'acqua tutto cambia, nel senso che appunto la forza di gravità si sente poco, per esempio, perché l'acqua cospita chi vede a far sollevare i corpi, e quindi può darsi che in realtà la ricerca per le tutine dei nuotatori sia qualcosa, abbiamo già provato a fare le pelose e si è venuto male. Dopodiché le foche, insomma. Esatto. Nicola, io volevo, stavi parlando di resistenza della sfera, del pallone. Credo che a tutti noi appassionati di calcio all'età di 10 anni sia capitato di giocare con il super tele, quello che tiravi e andava dove voleva lui, no? Quindi il pallone, quello regolamentare, quanto pesa, quanto dovrebbe pesare, quanto è importante che sia gonfiato e quanto può influenzare poi appunto una partita, questo secondo te? Dunque, la domanda è molto bella perché permette di andare oltre la fisica, perché una delle grandi scoperte di questo libro è stata che uno può descrivere perfettamente le leggi che governano l'urto fra piede e palla, che governano la traiettoria del pallone, ma poi una partita è fatta di uomini, di avversari, di pubblico, e quindi c'è qualcosa di psicologico che va oltre. Ecco, che cosa... mi sono perso il filo perché questa cosa è fondamentale. Ti ho chiesto quanto dovrebbe pesare un pallone, quanto lo si può gonfiare idealmente. Sì, perché... sì, adesso ci arrivo. È molto importante, ma non tanto per il gioco, ma per ciò che è il comportamento che il calciatore si aspetta di trovare nel pallone. Per esempio, il cambio di terreno. Quanto influisce erba vera, erba artificiale, questa è una problematica enorme, no, per gli appassionati di calcio, quanto influisce? Dal punto di vista fisico influisce pochissimo, cambia il coefficiente di restituzione, cioè quanta energia il terreno restituisce al pallone rimbalzando, ma ciò che cambia è ciò che il calciatore si aspetta, cioè l'attesa, e questo sconvolge il gioco. Faccio un esempio molto doloroso che è Inter-Palermo di settimana scorsa, che non so se si è visto, ma è stata una partita giocata sulla neve. Me ne potrei andare in questo momento per il dolore. Beh, Inter-Palermo 4-4, no? Sì, no. Ma sono le condizioni atmosferiche che hanno... 4-4 meritato per il Palermo, decisamente. Ma perché l'Inter ha giocato così male? Una delle cose, secondo me, è che non si aspettava sul proprio terreno, che conosce a memoria, quegli effetti fisici, cioè non si aspettava che la palla scivolasse in quel modo, e questo manda in cortocircuito il cervello del giocatore, che non è piccolo come si crede, ma in realtà è fondamentale, perché l'uomo è una macchina che prevede innanzitutto, non è solo gambe, piedi, potenza muscolare, ma innanzitutto è cervello che prevede le mosse, benissimo, le prevede in certe situazioni, se cambia il contesto salta tutto. Tant'è che ci sono giocatori di tennis che sono molto alta e complessiva quello che mi hai chiesto. No, ma tant'è che ci sono giocatori di tennis che continuano a vincere sulla terra rossa, sull'erba fanno schifo, se cambiano ancora terreno sembrano delle schiappe, eccetera. E uno dice, ma com'è possibile? Perché appunto la reazione, cioè quello che si aspettano, giustamente come dici tu, è qualcosa di completamente diverso. E quindi sì, gioco forza, cioè, l'Inter Palermo non allena solo i muscoli ma allena anche il cervello. Esatto, io credo che Palermo Inter non avrebbe avuto lo stesso risultato, mentre Inter Palermo proprio giocando in casa, se cambiano le condizioni del terreno dove di solito giochi, e beh, è lì che è ancora più sconvolgente. Esatto. Nicola, io credo sia stato quello. Nicola, ti volevo chiedere una cosa, la legge della fisica, del potere, il potere dispersivo delle punte, si può applicare anche ai giocatori di calcio, alle punte? È una bella cosa. Non lo so, però questa me la segno e ci scrivo il prossimo libro. Nel senso che sbagliano molti gol, allora fanno il potere dispersivo delle punte, magari c'è anche una ragione fisica, non lo so. Certo. La trazione verso il palo, la traversa. Prima parlavi di reazioni psicologiche, no? Forse anche il fatto di quando un giocatore viene espulso, quindi che si gioca a 10, che altera poi l'esito della partita, oppure no? Perché si gioca in 11 allora? Ma si gioca in 11, questo è divertente, è stato dimostrato da un anglosassone, che loro si divertono molto a trovare leggi nascoste dentro dei dati raccolti empiricamente, quindi non a cercare un sistema complessivo, ma la specifica cosa. È stato dimostrato che le dimensioni del campo di calcio tipiche, che in realtà sapete che sono variabili perché non sono determinate nella lunghezza, ma comunque la grandezza media, e tenendo conto della velocità, del tempo di possesso di palla, il gioco migliore si ha con 22 giocatori in campo, anzi 20 in realtà. Perché? Perché se fossero di più continuerebbero a intercettarsi e quindi la palla non volerebbe non mai. Volerebbe se mai. Fossero di meno ci sarebbero dei lanci lunghissimi, dei tiri lentissimi e quindi il gioco sarebbe poco interattivo. E quindi mettendo insieme, ma è una formula abbastanza semplice, me l'hanno fatta riportare nel libro degli editori, si vede che basta cambiare poco e cambi significativamente. In teoria quindi in 10 si dovrebbe giocare nettamente peggio. In realtà le partite rimangono abbastanza pari perché subentra il fattore psicologico. Una squadra che perde un elemento diventa più aggressiva di solito, spesso, se ha coraggio. Senti, che cosa succede quindi a Totti quando tira una punizione? Come si produce un tiro a effetto? Bisognerebbe chiedere a Totti, che scrive tanti libri anche lui. Dai, però come si produce un tiro a effetto? Citiamo Roberto Carlos, magari. Io appunto ho fatto questo tour nei licei pugliesi adesso e facevamo la parte di conferenza, di lettura, di domande e poi portavo i ragazzi, 200-300, in palestra e gli facevo tirare dei tiri a effetto. E la cosa divertente è che sono ragazzi giovanissimi, 14-15 anni, imparavano in mezz'ora. Cioè, all'inizio non capivano esattamente cosa dovevano fare, poi capito il linguaggio giusto, capito dove dovevano colpire, ecco. Secondo me Totti che cos'è? È un genio che si è allenato in modo tale da inventarsi una mossa e il suo cucchiaio non è nient'altro che la capacità, ma non è che è una capacità innata, io credo molto nell'apprendimento, cioè un grande talento è colui che impiega il suo tempo anziché a fare scommesse false eccetera sul campo a inventare le mosse, a allenare il proprio cervello, a saper muovere il proprio corpo nel modo giusto, e quindi ha inventato questa mossa veramente bella e c'è dentro tantissima fisica, cioè lui raccoglie il pallone e lo fa ruotare in modo che la sua traiettoria sia diversa ancora una volta da quello che si aspetta l'avversario, perché anche lì non è tanto il metro in più, il metro in meno, ma il fatto che l'avversario non se lo aspetta, il cervello dell'avversario sa che una palla tirata così andrà a finire lì, se va a finire a un metro di distanza è la crisi, e questo è anche l'effetto della maledetta di Pirlo per esempio. Esatto, però questo mi pare di capire è l'effetto Magnus, giusto? Sì. Lui lo vuole nominare, sì. Comunque no, non è che volevo nominarlo, è che mi stavo chiedendo come funziona l'effetto, nel senso, una domanda precisa, siccome io giocavo a pallavolo nel 1800 circa, cioè un secolo, più di due secoli fa, io dovevo cercare il peso della valvola, perché nel volo la posizione della valvola di gonfiaggio al tempo aveva un senso, perché cambiava, perché non solo si ruotava il pallone, ma addirittura il pallone ruotando aveva anche una traiettoria più o meno sinusoidale, insomma, tendenzialmente. Mi chiedo, ancora adesso la valvola ha questo peso, ha questa importanza, o comunque il peso è così ridotto che di fatto non intercetta il volo? La valvola è fondamentalmente una leggenda metropolitana. È insanabile nel mondo del calcio. Nel calcio? Ma io parlavo della pallavolo. Ah, sì, scusa, non sento tutte le parole, quindi... Ma interpolo un po', sono un fisico quindi interpolo, sento una parola ogni quattro, la domanda, questa è l'arte del fisico, riuscire a ricostruire la realtà, nel pallone pallavolo credo sia un po' diverso, perché è un po' più leggero mi pare, un bel po' più leggero, non ci sono studi, la risposta seria è non ci sono studi scientifici sull'effetto della valvola, la disomogeneità prodotta dovrebbe essere infinitesima, perché sono pochi grammi su 410 grammi di materiale, 450, 410. D'accordo. E quello che è vero è che invece è un fattore potentemente psicologico per chi tira. Chi tira spesso vuole avere un punto di riferimento chiaro. Io consiglio ai giocatori di fare una X rossa sul pallone e quindi di vincere così la propria... Però interessante. Senti, Ludwig, il tempo purtroppo è mitiranno, però io ancora avevo una domanda che veramente mi ha affascinato nel libro, perché tu a un certo punto, e riveniamo a quello che dicevi prima anche quando si giocava in 11, che c'è una scacchiera, che il campo di calcio potrebbe essere paragonato ad una scacchiera, che c'è l'area di parabilità e quindi il dilemma del portiere, ma a questo punto mi chiedo, qual è l'incognita che risolve questa equazione? L'incognita è un'incognita imponderabile come al solito, che è il coraggio del giocatore o la sua capacità di intervenire, o se vogliamo ridurla a qualcosa di misurabile, il tempo di reazione. Ecco, il tempo di reazione è una cosa misurabile, esercitabile, perché la mia e la vostra, forse la tua che sei giocatrice è un po' più veloce, ma comunque è valutata l'assicurazione sugli 50-70 centesimi secondo, mentre uno sportivo allenato può scendere parecchio. Benissimo, questo tempo di reazione è quello che ci permette di reagire all'azione degli altri, e per esempio è quello che determina il rigore. Nel rigore, dal punto di vista teorico, il portiere ha i tempi giusti per parare, solo che come fa a aspettare fino all'ultimo? Cioè, è una situazione psicologicamente piuttosto imbarazzante, e quindi tendenzialmente si tuffa con anticipo e crea appunto la condizione per cui poi il rigore va, 70% di probabilità va a segno. Ecco, io credo che veramente l'incognita che fa tornare i conti sia, e sarà incognita ancora per tanto, sia il pensiero del giocatore. Non è pensiero bello, buono, brutto, ma è come agire in campo. E questo è forse il bello del gioco. E questo è il motivo per cui un gioco, anche se analizzato scientificamente, anche se descritto scientificamente, ci rimane affascinante, perché è imprevedibile. Nicola, una domanda veloce che il tempo stringe. Credo che a tutti sia capitato di vedere un gol e dire incredibile, non come ha fatto. Nella mia testa due gol a cui sono molto affezionato, uno quello di Roberto Carlos contro la Francia, appunto lì bisogna capire come ha fatto, e poi da interista Bobo Vieri all'Atletico Madrid, quel gol incredibile quasi al calcio d'angolo. Ci puoi citare uno o due gol per te simbolo di sfida alle leggi della fisica? Ma in realtà un fisico ci sono poche cose che lo sorprendono, francamente è più la curiosità di capire come funziona. Devo dire che, come anche moderato ma appassionato di calcio, o più che altro di calciatori, devo dire che un gol che mi ha colpito tantissimo, la top 2 dei gol è sicuramente il gol di Grossi, il rigore di Grossi ai mondiali, ai mondiali di Berlino, perché è un'emozione, ma quello che mi ha emozionato di più come spettatore è il gol sempre di Roberto Carlos nel 2011, che in una partita del campionato brasiliano tirò da corner un tiro a effetto, ancora, cioè un tiro che ruota in aria a causa della forza aerodinamica, ma invito tutti a leggere il libro, che tra l'altro adesso è disponibile come ebook, quindi lo trovate anche, gli ascoltatori belgi lo trovano senza problema, e tirò da corner ed entrò in rete, e lasciando stupefatti non solo me che guardavo, ma anche tutti i giocatori presenti in campo. E credo che dal punto di vista umano più che altro sia straordinario quel gol, perché lo hanno fatto anche altri, ma il fatto che la persona da vecchietto, cioè 16 anni dopo aver fatto il grandissimo gol che hai citato tu, lo sappia ancora ripetere, rinnovandolo, inventando una cosa nuova e lasciando tutti stupefatti, ecco, questa è una storia epica, e quindi è qualcosa di grande nel calcio. Nicola, grazie. Ancora una curiosità: qual è stata la reazione del mondo accademico al tuo libro? Ma abbastanza positiva, nel senso, adesso è uscito addirittura sul sito della mia università, il mio dipartimento, che di solito è piuttosto schizzinoso sulle cose, non troppo con le sue cose applicate, ha messo una bellissima intervista che mi ha fatto un collega, quindi no, attenzione, i colleghi anche sono abbastanza contenti, perché il libro è scritto, non vorrei fare pubblicità, ma in realtà è il merito dell'editore, dei curatori, è scritto con molto garbo, è scritto in modo, perché è inserito in una collana che vuole porre la scienza in modo accessibile, innanzitutto. L'accessibilità deve prevalere sulla forma, sul formalismo, cosa che invece ammazza molta divulgazione italiana. Nicola, io confermo, avendo letto il libro, confermo veramente la tua chiave di lettura. Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori, quindi, La scienza nel pallone, I segreti del calcio svelati con la fisica, edito da Zanichelli. Ricordiamo quindi gli autori, Nicola Ludwig, che è stato con noi, e Gian Bruno Guerriero, che invece è stato coautore insieme a te. Ludwig, ancora un messaggio, un saluto, insomma, una parola di congedo. Ma saluto a tutti e invito sempre a questa cosa qui, sperimentate da voi. Quindi uno compra un libro, gli viene un'idea e provate anche voi. Grazie, allora in bocca al lupo. Grazie. E speriamo ad un seguito. Sì, la fisica del ciclismo. Allora... No, scusi, un secondo. Come la fisica nel ciclismo? Lo dici oggi, poi. Ecco. Io sono un ciclista, l'unica cosa che pratico è il ciclismo. Bene. Siamo in due. Bene. C'è qualcun altro in studio che adora questa... Allora, questo la fisica sport. Del ciclismo mi piace moltissimo. Prego, datemi 20 secondi, semplicemente per dire che è uno sport in cui la psicologia e il gesto tecnico sono un po' più separati che nel calcio, e quindi si può dire di più, nel senso che esiste il ciclista solitario, mentre il calciatore solitario è un po' raro. Sì. E quindi... E non andrebbe molto lontano. Scusa, la domanda che ti pongo è, uno, quando uscirà il libro, che adesso me lo prenoto, e secondo, parlerai solo di ciclismo, cioè di ciclismo su strada o anche di ciclocross e o mountain bike? Ma non lo so, è solo un'idea per il momento, però vedo che sta riscuotendo molto successo, sei già la seconda persona che si esalta. Assolutamente, io sono esaltatissimo. Uno fra l'uomo e il pedale. Ah, beh, assolutamente, anche perché voglio capire se c'è la possibilità di fare un salto in avanti alla tecnica della bicicletta. Io sono stanco della catena, sì, ecco, sì. Sono stanco della catena, devo trovare un modo, e anche del cambio, ci deve essere il colpo di genio che fa saltare, fa fare un balzo in avanti. E chissà che non si avveri. Nicola, ti ringraziamo, aspettiamo quindi, come vedi, tue notizie, speriamo quanto prima, e mi raccomando, non dimenticarti di noi. No, saluto a tutti. Buona serata, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Brangoro Sanjaku di Kayu. Avresti dovuto dire Liburangolo. Riburangolo Sanjaku GQ. Meglio. Tradotto? Liburangolo 319. 319. E vabbè. 319esima puntata, non ci siamo ancora. 319 è un numero. C'è povero, dai. Cioè, un numero che sa in giapponese. Ah, ma è vero, non scherza. Avevo proprio detto 319. Ah, ecco, pensa. Ah, bene, vedi. No, allora. Non ho capito. Mi stiamo mica scherzando. No, di te, sai che. 1, 2, 3, Liburangolo. Allora, stasera sarò molto veloce, penso. Mm-hmm. E vi racconterò di un libro che ho letto durante il viaggio nel Giappone, però che non c'entra niente con il Giappone, perché è I sotterranei di Bologna di Loriano Machiavelli. Un grande. E lo so che qua in studio c'è qualcuno che ha apprezzato tantissimo questo libro, anche perché l'ha fatto pensare alla sua amata Bologna, che non è sua, però è uguale. Però in parte. Però, cioè io l'ho guardato ovviamente con degli altri occhi, e quello che io ho apprezzato di più era lo stile strano, diciamo, della scrittura. Cioè, fondamentalmente lo scrittore è presente durante tutta la storia, e sembra davvero un dio che conosce tutto, e che conosce i suoi personaggi, che conosce dove andranno a finire le cose, e che però guarda questi personaggi con tantissimo di affetto e di ironia, prevedendone un po' le azioni e anche vedendo i loro limiti, ma sempre con tanto affetto. Comunque si tratta di un giallo, in cui le cose diventano sempre più complicate, sempre più difficili da risolvere, e dove c'è un corpo che è trovato al battiferro. Al battiferro di Bologna, e la inchiesta porta sempre sottoterra, dove al protagonista proprio non piace di andare. Cioè, e quindi è una storia dove nemmeno il lettore capisce bene dove andranno a finire le cose, che noi stiamo nuotando nello stesso miasma in cui sta nuotando il personaggio principale, e lo stiamo seguendo attraverso questa voce guidatore dell'autore. E voilà, ma cioè, lui si presenta in che modo? C'è una specie di fantasma, è sempre presente, cioè in che senso narra questa storia? Semplicemente là, cioè, nel senso che dice che, per esempio, delle cose del genere, che beh, io avrei consigliato al mio questurino di fare questo o quell'altro, ma poi lo ha deciso altrimenti. Cioè, cioè la voce presente, ma non dal punto di vista di prendere un ruolo attivo nella storia, è piuttosto uno che guarda, che lascia agire, ma che dà l'impressione di vedere tutto. Non so come si dice, Dio onnisciente, onnipresente, onnisciente. Io ho avuto questa impressione quando ho letto che fosse uno dei personaggi, ma forse una specie di personaggio invisibile. Non nel senso che un fantasma, ma uno, come per esempio, di quelle persone che ci sono, ma poi uno cerca di ricordare, ma chi c'era quella sera? E poi alla fine uno dice, c'era anche Tizio. Ah sì, cioè di quei personaggi, tra virgolette, trasparenti. Quindi lui c'è, ma non viene considerato da nessuno, come se non fosse considerato da nessuno, quindi come se lui potesse teoricamente agire, perché è lì presente, ma in realtà non agisce mai, e nessuno nemmeno lo considera. Potrebbe anche darsi, però da tutta la, diciamo, tutti i sorrisi nella storia, secondo me, vengono da questa presenza esterna. Quindi comunque io mi aspettavo, cioè non sapevo che cosa aspettarmi, comunque era una piacevole sorpresa questa scoperta, quindi ve lo raccomando caldamente e vivamente di leggervi I sotterranei di Bologna di Loriano Machiavelli. Loriano Machiavelli, che poi insomma è questo, questi suoi libri sono stati anche ridotti, sono diventati uno sceneggiato TV. Ah sì? Eh sì, sono stati trasportati alla TV, perché lui scrisse questi libri cominciando credo negli anni 70, e poi la TV invece l'ha riportato un po' più tardi. Devo dire però sono scritti tutti molto bene, quelli che ho letto sono scritti molto bene, insomma a me piace, mi piace il suo stile, mi piace questo modo di scrivere che ha. Beh, citato dal Petronio, il libro di letteratura del Petronio, cita già Loriano Machiavelli una ventina d'anni fa. Sì, sì, infatti i libri degli anni 70. Sì, forse pure 30. Cominciò a scrivere, sì, un po' di anni fa, 40 anni fa. Però in effetti aveva una scrittura tutto particolare. E per chi conosce Bologna, devo dire che è anche una scrittura locale, nel senso che fa un sacco di riferimenti che per i bolognesi hanno un senso, un modo traspare una cultura che chi conosce Bologna la riconosce immediatamente. Bene, Imola, scusa, volevi dire qualcosa? Niente, soltanto che sayonara. Mi piace. Allora, noi siamo in chiusura. Io veramente ringrazio gli ospiti di questa sera, Michel Jouaret, Gérard Adam, che sono stati con noi fino a qualche minuto fa, Dani M. Regia. Buonasera, grazie a tutti. Claudio, che ha partecipato anche alla trasmissione. Volevo salutare anche Luca, che non è potuto essere qui con noi questa sera, ma che ci ha permesso di conoscere Ludwig, Nicola Ludwig, della scienza del pallone. I nostri Giorgetto e Imola Fiordaliso, che sono finalmente rientrati. Yes. Ci siete mancati. Vi auguriamo una bella settimana, nonostante a quanto pare le temperature scenderanno ancora giù. Però non temete, tanto martedì prossimo saremo nuovamente qui con una puntata molto molto speciale, perché è la puntata di San Valentino. E io saluto Mary D, alla quale voglio un sacco di bene. Grazie, un abbraccio virtualmente da qui. Ciao. Ciao.